Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. I miei ricordi più piacevoli sono legati a uno spot di Dixon, se non mi ricordo male. C'era un tale Mr. X che in qualche modo mi ricordava Batman. Poi vabbè, la linea di Bruno Bozzetto per la Lagostina. Sono nata nel 28. Quello che volevo ricordare era che tutti quanti l'abbiamo avuta, quella fotografia col vestito di velluto, col punta smog tondo che abbracciava tutto da sotto al collo a metà dita, e la bambola per terra che si doveva far vedere. E questa fotografia per me è carina, e tutte le mie amiche ce l'avevano, quindi è una nota della moda di quel tempo. Dove appoggiate i vostri ricordi? Quando voi dite: ah, quella cosa, quell'oggetto, quel momento, quella sensazione, quella canzone mi ricorda qualcosa. Beh, vi prende un tuffo al cuore, improvvisamente vi si riapre una frattura nella condizione spazio-temporale che fa sì che noi abbiamo l'idea, l'impressione che esista una nostra vita passata e una nostra vita presente. In realtà non è così, non è così in assoluto, ma noi abbiamo i ricordi. I ricordi sono una sorta di allucinazione di momenti passati, ci sembra di riviverli, qualcosa ci torna immediatamente a mente, ci sono ricordi felici, ricordi infelici, ricordi che volentieri ricordiamo, ricordi che vorremmo aver cancellato per sempre dalla nostra vita. Naturalmente, nel corso della storia dell'umanità, l'umanità è sempre trovata a confrontarsi con i propri ricordi. I ricordi, perché rimanessero memorabili, cioè degni di essere trasmessi, venivano trasformati in storie, in racconti, in narrazione epica, in statue, in monumenti, in qualcosa che debba sfidare il logorio del tempo. I nostri miserrimi e stupidissimi ricordi personali, legati a piccolissime faccende della nostra vita che non necessariamente devono coinvolgere e interessare le vite degli altri, delle ricorrenze, dei momenti belli, dei momenti di nostalgia, dei dolori, delle afflizioni, delle unioni, dei lasciti, dei figli, delle soddisfazioni, delle mortificazioni, sono sempre legati a qualcosa che è un supporto concreto. Il ricordo noi lo avvinghiamo, lo incateniamo, lo annodiamo forte, legato a qualcosa, e più ci attacchiamo a questo ricordo, più questa cosa deve avere una sua concretezza. Per qualcuno sono delle fotografie, almeno erano delle fotografie quando la foto era ancora un supporto concreto. L'album delle foto si sfogliava ogni volta che si voleva ricordare qualcosa. I figli piccoli, ora che sono cresciuti, gli amori passati, ora che sono svaniti, i momenti della nostra vita, ora che ce li siamo dimenticati, la nostra giovinezza, i nostri momenti epici, banalmente epici, una festa di laurea, un ricordo di compleanno, un bel viaggio, e pian piano sono le erme, i segnaposto dei nostri ricordi che costellano la nostra vita. Questo fino a qualche anno fa. Da un 7-8 anni a questa parte, diciamo, i ricordi improvvisamente ci vengono indotti. Qualcosa ce lo ricorda che noi abbiamo fatto qualcosa quel giorno, la stessa ora, 10 anni fa, 5 anni fa, 6 anni fa, 7 anni fa, 10 magari ho detto un po' troppo. Arriviamo agli 8 anni, che è la data in cui gli italiani hanno cominciato a frequentare i social network. Beh, io ogni mattina, come penso la maggior parte di voi, ha una segnalazione di Facebook che dice più o meno così: siccome ti vogliamo bene, siccome ci teniamo a te, oggi ti mostriamo quello che hai fatto un anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, per me arriva fino a 8 anni fa. Io tutte le mattine c'è una rassegna di quello che ho fatto quel giorno fino a 8 anni fa. 8 immagini, 8 frasi, 8 momenti particolari. Alcuni mi fa piacere ricordarli, anche perché io i primi anni mettevo veramente tutto della mia vita, in quanto euforicamente attratto dall'idea dell'archivio digitale. Beh, oggi metto molto meno, e oggi molte volte non mi va di ricordare certe cose, non mi va di essere mortificato da qualcosa che oggi non condivido più, non fa più parte della mia vita, eppure immancabilmente me lo ripropone Facebook, e questo so che è il prezzo per avermi creato un supporto indelebile di memoria. Su questo vorrei confrontarmi con voi. Siete d'accordo che i ricordi sono qualcosa che noi decidiamo dove vengano a rimanere essere attaccati e dove debbano essere invece rimossi? Perché anche voi ogni mattina condividete, come svolte faccio io, quel ricordo artificiale che vi sottopone l'algoritmo di Facebook? Ha veramente un valore per voi? 800 24 00 24. Melog, cronache meridiane. La mia memoria io la conserverò con mio figlio. Quando avrò un figlio sarà lui la mia memoria storica e il mio passaggio all'eterno, diciamo. La memoria di oggi verrà conservata esattamente come è stato fino ad oggi, cioè con lo scritto, e che lo scritto sia in grado di conservare la memoria di quei fatti che vanno a riguardare l'essenza dell'uomo e non quelli che vanno a suscitare un vago e superficiale senso di curiosità. Prima che ci fosse Facebook a scandire quelli che sono i supporti della nostra memoria indelebile, indelebile perché sempre lì rimarranno, sempre nei backup delle macchine di Facebook, se anche noi ci staccassimo sempre lì rimarremmo. Quindi quello che noi vediamo ogni mattina, che ci arriva ogni giorno, ti vogliamo bene, guarda cosa hai fatto un anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, è indelebilmente fissato da qualche parte. Beh, prima che esistesse tutto questo, dove appoggiavamo la nostra memoria? Sotto quale sasso mettevamo il foglietto con il nostro ricordo imperituro, almeno doveva essere tale nella nostra intenzione? Allora, Fabrizio Intonti mi ha scritto cosa aveva lui conservato: un tappo di una bottiglia, un papavero secco dentro un libro, il lembo di un vestito, delle pagine di un diario. Però è stato coraggioso, un certo giorno ha buttato via tutto. Mentre lui mi scriveva questo e mentre ascoltavo l'interruzione del traffico, ho pensato quali sono i miei supporti di memoria più remoti, più lontani. Sì, ce l'ho in una vecchia scatola di cuoio per contenere i sigari toscani. Io fumavo il toscano fino a una 25ina di anni fa. Nella scatola vuota che non mi serve più ho conservato quelli che sono i più antichi supporti della mia memoria, ai quali non mi ricordo nemmeno bene cosa sia attaccato. E ve lo dico, non inorridite. È una rana mummificata, seccata. La trovai da ragazzo, facevo l'università. Me la appesi con un filo di nylon sopra il letto, ci ho fatto tutti gli anni all'università. Poi me la sono portata a Roma e la tengo in una scatola. È una rana carina, mummificata, come una mummia di rana. Me la tengo lì. Poi una carta, è un 7 di spade. Lo trovai durante una vacanza fatta, forse per la maturità classica, a Valencia. Andai in Spagna con degli amici, trovai questo 7 di spade e me lo sono tenuto. Feci una cornicetta e me lo tenni. Poi un mazzo di chiavi, ma saranno 20, 30, 40 chiavi, con un grosso moschettone. Erano le chiavi degli appartamenti delle mie amiche quando facevo una vita scapestrata e spensierata a Perugia. C'erano un sacco di ragazze fuori sede, pugliesi, marchigiane, ternane, siciliane, venivano da tutta Italia. E noi scavezzacolli perugini le frequentavamo. Ci facevamo sempre la seconda chiave delle loro case. Perché? Perché quando loro andavano a trovare genitori, fidanzati ufficiali, noi eravamo quelli ufficiosi, noi usavamo le loro case come scannatoio per portare altre amiche. Una cosa detestabile, una cosa di cui mi vergogno. Però questo mazzone di chiavi non me ne sono mai saputo liberare. Ogni chiave corrispondeva a un ricordo, a un'amica, a qualcosa di fuggevole, lontano e dolce. Non saprei dirvi nomi, non saprei dirvi volti. Questi sono i supporti della mia memoria. Aspetto i vostri. 800 24 00 24. Franco, buongiorno. Buongiorno, io sono un nonno di 67 anni che sta raccogliendo dei ricordi per la nipotina. Ora, non c'è niente di meglio dei ricordi sonori. Io mi ricordo la gioia di aver avuto il mio primo registratore, adesso ne ho 5 o 6, no? Più quelli a cassette, più quelli digitali. Vorrei invitare tutti i nonni, per quanto è possibile, conservatelo su nastro magnetico, anche se poi li masterizzate. Io ho masterizzato tutto ovviamente, però il nastro, essendo usato anche nelle scatole nere degli aerei, è quello che dura più a lungo. Cioè voi, i giovani non si rendono conto che i supporti di oggi durano pochi anni o poche decine di anni, ma in genere pochi anni. Chi è che trova più i lettori di floppy da 5 pollici o anche i floppy normali, no? Ecco, il sì, computer, ma scusi, quante volte anche i lettori di nastro magnetico, oggi trovare un registratore a cassette mi sembra un'impresa. In quale nastro lo metto? Su eBay è pieno, e nei mercatini è pieno, sia le cassette sia quelli di nastro magnetico. Ma un file no, metterlo su un file, fare un MP3 no. Infatti, ma oltre quello, io dico una questione di durata. No, io c'ho ancora il nastro con la voce di mia nonna registrato 50 anni fa. Lei conservare le voci è la cosa fondamentale. Conservare le voci su nastro, cioè dopo averle masterizzate, file, MP3, tutto quello che si vuole, ma una copia. E cosa ci mette in questa scatola nera della sua vita per suo nipote? Cosa ci mette? Le voci. strumenti, no? Le voci mie quando ero piccolo, le mie improvvisazioni all'organo quando io ero giovane, no? Le voci dei suoi nonni, dei suoi bisnonni, perché era la voce di mio nonno e suo bisnonno. Poi vorrei anche invitare a fare per quanto possibile stampe e diapositive, perché anche lì i file, se tu non riesci a leggerli a volte, fra 20-30 anni, se tu hai una diapo la metti contro il sole e la leggi e la vedi, se hai una stampa la vedi, cioè facciamo delle copie di materiale. Le posso dare un consiglio, Franco? Lo sa qual è il supporto in assoluto, provato scientificamente, storicamente, che finora si avvicina più all'eternità? Beh, forse i quadri, non lo no, so. La pergamena. La pergamena. Ah, sì, va a trovare la pergamena. Se lei vuole essere sicuro, perlomeno scientificamente, con evidenza scientifica, la pergamena è il supporto che ha mantenuto più nel tempo quello che c'era sopra. Sì, trasferisca su pergamena. Fra lo scritto e la voce è un'emozione sentire la voce oltre che lo scritto. Per quello che invito a salvare per quanto possibile su nastro magnetico, c'è ancora gente che ripara i registratori, no? Sui mercatini è pieno, andate, comprateli e salvate i file migliori, che sono in genere 1 su 100, su nastro, così fra 50 anni ce l'avrete ancora. Va bene, ha trovato anche una buona occasione fare del bricolage umarellico, quindi questo aiuta anche a riempire il tempo e dedicare la parte residuale della propria vita al mantenimento in vita della propria memoria. In fondo c'è chi si fa i monumenti, chi si fa le cappelle funebri e chi registra la sua vita sui nastri. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo solo, come dire, dare un alert a quanti su Facebook pubblicano qualsiasi cosa che riguarda la propria vita, e lo faccio a partire da me, dicendo che non ho più un profilo Facebook, perché nel tempo mi sono reso conto che si pubblicava un po' troppo del personale, e quindi questo poteva essere poi usato. Sì, ma allora, questo ho capito, è un suo problema. Dove, la sua memoria dove la lascia, visto che Facebook pubblica troppo del personale? Direi sulle fotografie, come diceva il signore di prima. Sono dei supporti, anche se datati, però che restano comunque. Allora, foto stampate su carta. Io sto elencando, sto scrivendo i supporti alla memoria. Il primo signore, nastri magnetici, foto stampate su carta. Andiamo avanti. Gianni. Sì, pronto? Sì. Dove lascia la sua memoria? A chi affida la sua memoria? Allora, la mia memoria l'affido alla vista. Nel senso che io ho perso l'olfatto circa 25 anni fa, 30 anni fa, per cui sento che c'è un odore, ma in assoluto non riesco a riconoscerlo, perché se uno mi mette sotto un piatto di tagliolina, il tartufo, non riesco a capire. Non ha più l'olfatto, non ha più l'olfatto. Devo guardarlo, quando lo guardo sento l'odore. Ho capito, ma quando i suoi occhi saranno sottoterra, chi vedrà quello che lei ha visto? Non lo so. Ma questo, ma il senso è questo, oggi non ha capito il senso della trasmissione. Noi vogliamo comunque avere un supporto alla nostra memoria. Primo, serve a noi per ricordare i momenti della nostra vita. La nostra memoria non richiama immediatamente in superficie tutti i file. Abbiamo dei file nascosti, seppelliti nelle parti più profonde della nostra memoria organica. E ogni tanto ci piacerebbe ritirarli in superficie. E quindi dove li appendiamo, dove mettiamo qualcosa per suscitare questi ricordi? Finora hanno detto nastro magnetico e fotografie. Molto old fashion come idea di supporto alla memoria. Vediamo se da qui a qualche istante, dopo la pausa, qualcuno mi suggerisce qualcos'altro che riporta immediatamente alla memoria cose che lui, secondo lui, sono meritorie di essere ricordate. Oppure ci sono persone che non hanno memoria. Le persone più spaventose e conosciute sono quelle che dicono: io da un certo punto in poi della mia vita non mi ricordo niente indietro. E chissà perché non si ricordano niente. Forse perché quella vita non ha avuto ragione di essere vissuta. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. All'interno di questa comunissima capsula del tempo ci sono la bellezza di, vabbè, non lo so, un po' di oggetti che non ci prendono apparentemente niente l'uno con l'altro. Abbiamo un dentifricio, una bottiglia di un liquame non mai identificato, una spumita gialla, un fermaglio blu, una matita, una cucinella di gomma, un coltello da psycho, un bicchiere, un CD registrabile e un cerchietto. Ora chiudiamo la capsula del tempo. Sono passati 800 anni da quando abbiamo... Adesso apriamo la capsula del tempo. Se si apre. Perché non si apre. Mi scrive un ascoltatore molto invelenito. In realtà due o tre mi scrivono molto inveleniti. Chissà perché parlare di memoria improvvisamente colloca il discutere in un ambito di vecchiume. Non è vero. Anzi, da quando si è bambini si conservano delle cose che ci ricordano qualcosa. La piccola scatola delle meraviglie che ogni bambino ha, con piccolissime cose che lo fanno riflettere, dalle conchiglie a probabilmente dei giocattoli che uno non vuole abbandonare. E noi siamo esseri umani continuamente alla ricerca di supporti su cui lasciare la nostra memoria. La nostra unica illusione di essere eterni, di non scomparire, è appiccicare la nostra memoria da qualche parte. È l'istinto per cui si muove l'umanità, per cui si fanno figli, per cui si cerca comunque di fare qualcosa di memorabile. Le nuove generazioni, i cosiddetti nativi digitali, anche se è un termine che trovo molto artificiale, vivono in perenne contemplazione feticistica della loro memoria. Non fanno altro che raggruppare attimo dopo attimo la loro vita, dando a ogni attimo la qualifica di attimo epico. Guardate, nel bene o nel male, quando si leggono lo scambiarsi e ritrovare di video Oseo, di video porno da parte di ragazzini e ragazzine, qual è il momento epico nella vita di ogni adolescente? Il momento della scoperta della sessualità. Il fatto di filmarlo, immagazzinarlo e condividerlo esattamente corrisponde a quello che una volta le chiacchiere fra amici, i racconti sommessi si facevano al telefono. È modernissimo l'istinto di conservare le proprie memorie. Marcello, buongiorno. Buongiorno, volevo integrare quanto detto sul digitale, perché è vero che i supporti cambiano, ma si possono trasportare da una parte all'altra. Io ho cominciato con i floppy e l'ho portati poi su CD, su DVD, su Blu-ray, adesso sposto tutto direttamente su hard disk. Sto anche digitalizzando cose che erano nate in analogico, oltre che conservare materiali digitali, quindi ho digitalizzato le vecchie lettere, documenti scolastici, vecchie foto stampate e sostanzialmente di cartaceo ormai tengo praticamente una scatoletta con qualche ricordo che non ho il coraggio di buttare, ma di cui già esiste copia digitale. Però Emiliano, lei sta digitalizzando tutti i suoi supporti di memoria, diciamo, concreti. Questo sta facendo? Assolutamente sì. Ogni tot, quando esce un formato nuovo, sposto dai vecchi, magari, non so, 100 floppy diventano un DVD. Per cui alla fine poi tutti i DVD diventano un Blu-ray e così via. Per cui in realtà alla fine è abbastanza facile fare. Però Emiliano, è molto interessante quello che fa lei. È quello che noi chiamiamo l'ombra digitale. L'ombra digitale è la grande massa di terabyte che noi ci portiamo dietro le spalle da quando nasciamo, dalla prima ecografia digitale al primo nostro apparire in un archivio digitale. Quella è l'ombra digitale. È stato calcolato che ogni essere umano ha qualcosa, se fosse sovrapponibile in fogli di carta con stampato quello che è la nostra memoria digitale, sarebbe non so quante volte dalla Terra alla Luna rispetto a quello che noi immagazziniamo in dati digitali. Però lei sta creando, diciamo, in realtà il simulacro della sua vita, lo sta aggiornando il più possibile nella speranza che sia leggibile da qualcuno, quindi è molto moderno quello che sta facendo lei. Vera, buongiorno. Buongiorno a lei. Io sì, ho fatto questo lavoro e mi è sorto spontaneamente, no? Cioè volevo condividere la gioia dell'aspettare un figlio con lui. E quindi mi è sembrato naturale incominciare a parlargli, a scrivergli, dargli delle idee fotografiche, esprimergli i miei pensieri, quello che sono stata, perché io penso che quando si diventa grandi cambiano anche i nostri ricordi, no? Il nostro modo di ricordarci, e quindi per potergli dare una visione più ampia di chi era, di chi è stata la sua mamma, ho anche parlato di me. C'è un sistema molto interessante che per poter mantenere nel tempo i propri ricordi, ed è si chiama Don't Share, e è un sistema praticamente informatico nel quale noi possiamo depositare i nostri ricordi con un contributo minimo, e successivamente questo verrà poi consegnato alle persone. È una sorta di testamento elettronico, naturalmente. Lei dà qualcuno che ti ha un hosting? No, testamento testamento è brutto, è un ricordo, un testamento è un lasci, sì, beh, forse no, è un testamento spirituale, può essere, diciamo, anche semplicemente ideale, ecco. Lei sta mettendo, qualcuno ha un hosting dove mette tutto quello che lei dà e con l'impegno che poi lo ridarà la persona che lei preferisce, ma è molto meglio pensarci in tempo. Io sto rabbrividendo pensando, se dovessi scomparire adesso, le mie password di tutti i miei social network, della mia email, chi ce le ha? Nessuno. Rimarrà tutto lì, eternamente seppellito in una sorta di limbo di cui non potrà giovarsi o non potrà dolersi, forse più realisticamente, nessuno. Sandro. Salve. Beh, io non vorrei mortificare l'aspirazione di molti, ma insomma, vicino a me c'è un rigattiere, ha diversi scaffali pieni di ninnoli, di quelli che una volta insomma trovavi a casa di nonna. Piatti dei ricordi, posacenere, salire, i nipoti, come dire, insomma, una volta la persona non c'è più, se ne disfano, insomma. Lei Sandro, mi dice una cosa formidabile in quanto terrificante, il memento mori dei supporti di memoria. Le immagini, quei ninnoli, quei piattini, quei centrini, quelle bomboniere, quelle chincaglierie inutili che hanno accumulato in generazioni nonne, zie, nipoti, appoggiando ad ognuno di essi un ricordo, quante volte hanno spolverati, accarezzati, ricordando il momento di gioia, ma soprattutto di gioia, perché i nostri vecchi le afflizioni le conservavano in un'altra maniera, con foto bordate di nero, le foto dei lutti, dei morti, ma tutto insieme comunque alla fine arriverà un nipote che eredita la casa e la prima cosa che fa la sgombera di tutto quel vecchiume e va dal rigattiere. È come se fossero dei supporti di memoria altrui che nessuno più ha il lettore per leggerli, per lei compra la chincaglia come chincaglieria, che ne sa cosa ci ha appiccicato sopra? Nessuno lo saprà mai, non esisterà mai un lettore di ricordo appoggiato ad un oggetto. Luciano? Sì, pronto? Sì, l'ascolto. Sì, io i ricordi miei li affido agli oggetti. E me ne descriva qualcuno, no, con il ricordo attaccato. Il maglione di quando facevo il militare. Ah, quello verde che pizzicava? Beh, me l'aveva fatto mia madre, quindi... Ah, fatto in casa, Che lo usavo come pigiama, perché faceva molto freddo dove stavo. Eh sì, perché non si poteva mettere nulla fuori ordinanza. No, quello lo usavo come pigiama e andava benissimo. Però, ad esempio, un mazzo di carte con cui giocavo con mio padre. Sono questi i ricordi che... Ma lei il maglione, ma cosa ha lei, diciamo, un luogo, questo mi interessa capire il sacrario domestico, il maglione che sarà ingombrante, infeltrito, pesante, probabilmente fatto ai ferri da sua madre, ormai non sarà più mettibile, dove lo tiene? No, è in una scatola, assieme alle carte. In una scatola, in cantina, le carte le uso ancora, uso sempre quelle che usavo con mio padre. Sono solo queste due cose, lei, diciamo. No, non sono, questo è un esempio, poi sono anche vecchie fotografie, piccoli oggetti che fanno ritornare alla memoria, ma fanno ritornare alla memoria casualmente, perché ritornano fuori da un cassetto e quello poi ti riaffiora alla mente quello che ti ricorda. Li affido al caso. Perfetto, lei allora non si affida all'algoritmo di Facebook che seleziona i nostri ricordi, non so in base a cosa li selezioni, io penso che vada a prendere un giorno quello che ha avuto più like o quello che è stato visto da più persone, pensando e immaginando, bisogna avere un criterio di scelta, che sia quello che più vale la pena di ricordare, ma potrebbe essere anche un giorno in cui ho fatto uno scivolone, sono caduto per terra e tutti ridevano, io non vorrei mai ricordarmelo, uso una metafora fra le più stupide. Luciano, l'abbiamo sentito? Emiliano. Gianluca, ciao, buongiorno. Buongiorno. E io ho affidato i ricordi con un po' di rammarico a Google Photo, che però parte dal 2001, e questo da prima non ho ricordi digitali. Beh, sono 15 anni, 15 anni della vita è un bel pezzo, eh. Beh sì, ne ho 43, quindi ho perso proprio. Invece immagino che le nuove generazioni che hanno gli smartphone disponibili già da pochi anni, non so, diciamo un ragazzino di 7 anni oggi ha già la sua vita digitalizzata, la sua ombra digitale sovrasta la sua realtà, perché ha più roba sicuramente lui nel suo smartphone, nelle memorie su cui via via lo riverserà, nell'iPad di famiglia, di quante noi ne abbiamo avute cloud nei primi ma il cloud, sì, anche un cloud, certo, se c'è un, ormai tutti i supporti informatici permettono di avere un cloud. E le immagini, non so se si ricorda, anche se è da 44 anni, da 0 a 10 anni, ma io della mia vita avrò 10 foto, non lo so, da 10 a 20 anni ancora meno, che poi non te le facevano più, non eri più bellino, carino da fare le foto, chi se le faceva? Ti posso dire che ultimamente ho rincontrato una mia ex ragazza pre-digitale, pre-era digitale, sì. E io e lei, pur avendo vissuto insieme 8 anni, abbiamo forse una ventina di foto insieme, invece con le ultime donne con le quali sono stato pochi mesi, con loro su Facebook ovviamente ho una storia che sembra infinita. Sì, no? Poi verrà il momento che avrà delle storie e non le metterà su Facebook per ovvi motivi. Ma quello certo, già succede. Grazie, ecco. Gianluca. A presto, ci sentiamo tra un istante. 800 24 00 24, un minuto solo. Melog, cronache meridiane. Renzo, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Dove mette il suo... Non so se sono fuori tema o se sono più originale di quelli che sono intervenuti prima di me. Io abito in campagna, vivo in campagna, e in tutte le occasioni degli eventi più importanti della mia esistenza ho piantato un albero. Beh, fantastico, succedeva anche nella mia famiglia, accadeva, sì. Mi ricordo. Ecco, io praticamente guardandomi intorno vedo piante e ogni pianta per me è un ricordo, e quindi più tangibile di così per me non credo che ci sia, perché anche i supporti di oggi uno non li guarda tutti i giorni, insomma, no? Ma sono alberi diversi, ogni ricordo lo segna con un tipo di pianta? No, io ho piante diverse, ho querce, olivi, castagni, noci, insomma una pianta. Allora adesso le faccio una domanda insidiosa. Prego. A seconda dell'albero che lei pianta, se pianta un pioppo il ricordo deve finire presto, se pianta un olivo il ricordo abbastanza... Dalle mie parti pioppi purtroppo se lo affida un olivo ha la speranza che li sopravviverà almeno di due generazioni. Sì, sì. No, io sono tutte piante che sopravviveranno a me e anche ai miei posteri. Ma nessuno saprà mai quale ricordo è appoggiato a quella pianta, se non le fronde della pianta quando le attraversa il vento. Sì, ma il bello secondo me è anche quello, che praticamente rimarrà oltre al mio ricordo e al ricordo degli altri che vivono attorno a me in pratica. Ma lei comunque da un suggello... forte i suoi ricordi, lei pianta la pianta, sanno che quello è un suo ricordo, nessuno saprà mai quale ricordo è associato all'albero, me ne dica uno di un ricordo associato a un albero, il più forte. La nascita dei miei figli, ognuno dei miei figli c'è una pianta. Quello lo sapranno anche loro, vedranno. E lo sanno anche loro senz'altro, e anche loro sicuramente anche loro poste lo sapranno. Sì, quello anche, mi ricordo nel giardino di casa mia c'erano cipresse e cipressesse in ordine dei figli e delle figlie dei miei nonni. Il cipresso, quello dritto alto, erano i maschi, quelle un po' più spampanate erano le zie, me lo ricordo. Ma per caso, mio nonno capitò lì, aveva comprato la casa, si ritrovava 7 figli distribuiti fra maschi e femmine, corrispondeva esattamente il numero di cipressi e cipressesse, che erano i cipressi spampanati, al numero e al genere dei suoi figli. Fu un caso e non ci portò per niente bene. Carmela. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. I miei ricordi li tengo specialmente negli oggetti. Me ne dica qualcuno. C'è una piccola bottiglia dove dentro c'è la crocifissione in legno di minimi particolari. E cosa le ricorda sta crocifissione? Questo mi ricorda, purtroppo mi ricorda che questo è un oggetto che fece mio padre quando è stato sotto i tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Ah, un bricolage di prigionia, diciamo. Sì. Fece un crocifisso, come la gente fa la nave dentro la bottiglia, ci fece un crocifisso. Sì, ma con tutto, i tre chiodi, la scaletta, la parola Inri. Questo le ricorda suo padre. Poi? Sì, dopo ho degli aggeggi per fare i dolci del secolo 800. Non mi ricorda il Crisavolo perché non era ancora nata, però è passato da mia nonna, mia madre, ad San Me. Si passavano di donna in donna. Come? Gli stampini dei dolci vecchi, antichi. le stampini sono delle per pizzicare e per tagliare, sono delle rotelline. Ah, ho però capito, la rotella. Pezzo unico perché i miei avi erano lavoravano il ferro, no? Ah, quindi erano fatti in casa? Quindi, erano fatti in casa, sì. Vabbè, sono tutti ricordi comunque della vita degli altri, la sua vita che ricordi ha? È della vita che ho, e sono tutti, c'è uno stereo del 1980, per cui mi posso vedere, mi posso sentire con i nastri, i concerti che ho fatto con i cori. Ma perché lei era cantante? Sì, sono un contralto. Un contralto, quindi ma se li faccia mettere su un supporto un po' più moderno, no? Adesso io sto ma dato che ho sempre da fare, anche pure che l'età c'è. Vabbè, l'età li porta in ci sono... andare assolutamente a farmi dei dischi. Ma lei va in un negozio, li porta il supporto e loro glielo rimettono su un DVD, su qualcosa di un pochino più recente, se lo sente meglio. Bocca al lupo, Carmela. Mauro. Ma buongiorno Luca. Dico la mia esperienza con gli oggetti antichi. Io ho un amico che ha il papà che nel corso degli anni, adesso ho 80 anni, suo padre ha creato una casa museo, cioè una casa di 3 piani, sono 3-4 stanze per ogni piano, colme zeppe di oggetti e sono i ricordi, tutti i suoi ricordi, a me megalomane. Però il bello è che diventano un po', mantengono una memoria collettiva, nel senso che la prima volta che sono andato dentro non ho neanche capito cosa c'era in realtà, e ogni volta che ci passo adesso ci sono degli oggetti che sono un po' come delle finestre del computer, no? Però che fanno questo dei ricordi. Mauro, se può permettere, soltanto un capostipite, un grande padre di famiglie numerose, che accumula tutto quello che agli altri danno il genio della propria stirpe, ma una persona che non lascia nulla. Non ha una famiglia numerosa, lui è un figlio, cioè è proprio la storia della sua vita. Le faccio un esempio: io ho mio padre che ha sempre tenuto tutto, io invece no, cerco di liberarmi di tutto perché non voglio avere cose, però mantenendo tutto, se poi si ha la cortezza di sistemarlo, dargli un senso proprio, diventano dei percorsi. Almeno io l'esperienza che ho avuto in questa casa qui è quello, è un po' come fare un viaggio nel passato e vedere delle cose che ti aprono delle Ho capito Mauro, però c'è un grosso rischio di rimanere intrappolati in questa sorta di seduzione dei ricordi. Un po' va bene, ma il tempo che noi dedichiamo a rievocare ricordi è tempo che rubiamo alla nostra vita. Anche questo bisogna stare attenti. Una vita che ristagna nel proprio ricordo è una vita che non si vive. È bello pensarci un attimo, è bello avere il sapore di aver vissuto, di aver conosciuto, immaginato, ma poi la cosa migliore è fare una bella buca e seppellirli i ricordi, se no uno ne rimane schiavo. Angelo, sono Angelo, buongiorno Nicoletti. Io ho 40 anni di diario. Sono in cantina e vado avanti a scriverlo. Durante questi 40 anni sono nati i miei fratelli, sono morti i miei genitori, mi sono sposato, sono nati i miei figli e continuo a scrivere l'agenda o il diario che sia. Vabbè, questo l'aiuta, sento che lei è molto allegro, quindi l'aiuta ogni giorno a tenere sulla sua vita. Ringrazio tutti gli ascoltatori, vi dico la mia verità. Mi aspettavo qualcuno mi dicesse che ha ricordi indecenti, ricordi solleticanti, ricordi che vorrebbe ricordare ma non può raccontare. Invece avete tutti dei bei ricordi legati alle famiglie, ai figli, ai nonni, ai nipoti, alle belle antiche cose di una volta. Quindi, amen, godetevi i vostri ricordi, io i miei non ve li dirò mai. Alla prossima!